Noi abbiamo un baluardo ovviamente il 24 di luglio, sono 4 mesi che ci mancano e noi dobbiamo difendere questo concetto. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Io forse ho trovato un modo per uscire. Supponiamo di farcela uscire. Alla prima conta se ne accorgeranno. Ce ne andremo di notte. Se ne accorgeranno la mattina. E io che faccio? Tu farai la guardia mentre io scavo, io la farò mentre scavi tu. E voi due farete lo stesso. Quante probabilità abbiamo? Scarse. Io ci sto. Anch'io. Voglio andarmene. Rete riconosciuto, fuga da Alcatraz. Allora, Ettore Messina lunedì, ospite di tutti i convocati, non esattamente l'ultimo pirla, ha detto: stiamo facendo il possibile per mandare a casa in sicurezza i giocatori. Ieri la notizia di Higuaín che torna in Argentina è diventata appunto fuga nottetempo di un terrorista. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao. Giovanni Capuano, buongiorno. Ciao. Venerdì di tutti i convocati con Max Nerozzi, Corriere della Sera. Ciao Max. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao, io dopo che ho sentito ieri la notizia di Higuaín che ha scatenato moltissimi haters, ho subito dubitato che fosse stata infranta la legge penale. Poi possiamo discutere di opportunità, buon gusto, di un sacco di altre cose, però bisogna anche essere, secondo me, rigorosi nelle ricostruzioni, Max. Guarda, poi c'è un piccolo problema, cioè ieri noi abbiamo parlato ovviamente con la polizia, a Caselia, all'aeroporto di Torino, c'è un presidio della polizia, come in tutti gli aeroporti italiani, e se la polizia, dopo aver controllato i documenti, avesse lasciato partire Higuaín senza che non potesse farlo, avrebbe fatto un reato. Cioè, appunto. Quindi, appunto. Voglio dire, prima di dire delle cose, secondo me bisognerebbe pensarci, ci sono dei reati molto gravi fatti dai pubblici ufficiali, non solo da Higuaín nel caso. La storia è che Higuaín si era messo in quarantena domiciliare volontaria, come succede a tutti noi se siamo stati in contatto con un contagiato. Dopodiché, visto che molti hanno parlato del decreto citandolo, è vero che c'è scritto che chi viola la quarantena, ma c'è una differenza tra la quarantena obbligatoria, cioè se io o Capuano o Genta siamo positivi, dobbiamo stare a casa se non abbiamo sintomi e non possiamo uscire perché è un reato, o di chi volontariamente se ne sta a casa per precauzione. Visto che Higuaín era stato sottoposto a tampone nei giorni successivi, perché bisogna aspettare, ed era negativo e aveva con sé allegato il referto medico. Tra l'altro, tampone, non aveva, Max, perdonami, non aveva il divieto, scusa, per inciso, tampone cui aveva diritto secondo il protocollo o no? Guarda, sì. Secondo me, no, aveva diritto, certo, sai, secondo me, tu stavi dietro, secondo me il problema è questo. Il problema è che, soprattutto nelle ultime settimane, quando i tamponi sono stati iniziati a non fare a tutti, perché spesso la gente chiama, segnala sintomi, se non è grave viene lasciata a casa e non ci sono tamponi per tutti, soprattutto in alcune regioni, abbiamo visto che c'è chi fa il tampone, chi no, ma potrei citare anche qualche nostro collega famoso o qualche politico che non ha incarichi di governo, perché sai, se hai incarichi di governo in regione è un altro conto. E su questo secondo me si può discutere, ma sul fatto che Higuaín, piuttosto che Khedira o Pjanic, abbiano violato delle norme sanitarie, questa è una frotta, insomma. Pierluigi, la tua opinione su questa questione marginale, ma che riguarda in parte lo sport, in parte la vita di questi giorni e in parte anche un sentimento che credo sia abbastanza pericoloso, cioè quello degli odiatori selvaggi a prescindere. Sì, ma questo lo sappiamo, e anzi, se c'è una sola piccola cosa, secondo me, in questo momento drammatico che non va buttata via e che mi sembra che gli haters siano un po' in sordina mediamente rispetto agli standard soliti, perché abbiamo tutti ovviamente paura e quindi questo è proprio secondario. No, ha detto benissimo Nerozzi, cioè qui c'è da capire, sarebbe stato un reato e sarebbe stato un errore clamoroso da parte del posto di polizia di Caselle a consentire una partenza se non ci fossero state le condizioni. Quindi sulla legalità secondo me c'è poco da discutere, mi fido ovviamente delle procedure che sono state fatte. Poi sull'aspetto ovviamente simbolico, è chiaro che non è un gesto che inserisce Higuain nella categoria dei più coraggiosi al mondo, però è anche vero che onestamente ognuno reagisce a questo tipo di situazione con la sensibilità propria. Io non me la sento veramente di giudicare, questa è veramente una situazione senza precedenti, poi, nella quale ognuno reagisce. Per esempio, sto barricato in casa un po' perché devo farlo, ma un po' anche perché penso che sia la cosa più sicura, poi insomma spero di non sbagliarmi, ormai da giorni e giorni, e qui evito qualsiasi genere di uscita, cioè ognuno ha il suo approccio. Qui poi ovviamente stiamo parlando di giocatori che vengono dall'altra parte del mondo, un'altra parte del mondo nella quale in questo momento probabilmente la percezione, anche se in Argentina mi pare che hanno subito adottato un metodo draconiano, con pochissimi contagiati, ma sono intervenuti subito da quello che mi risulta, quindi insomma sì, poi sì. È ovvio che il messaggio simbolico non è proprio il massimo della vita. Ecco, non è il massimo della vita. È chiaro che Giovanni può permettersi l'aereo privato, può permettersi cose che noi umani non possiamo permetterci, eccetera eccetera, però da lì a dire che l'ho letto anche da diverse parti, hanno fatto uno shampoo non da poco su vari media Higuain, così come agli altri due della Juventus. Sulla ricostruzione resto a quello che ha detto Max Nerozzi e quindi lì ci fermiamo. Sull'opportunità ognuno faccia le sue valutazioni, compresi tanti che magari adesso parlano di Higuain e due settimane fa hanno preso il treno e sono tornati a casa, perché poi in questi momenti è quella la tentazione che viene. Sul fatto che lui possa aver fatto il tampone e altri no, lui possa permettersi l'aereo e altri no, di certo non abbiamo scoperto ieri pomeriggio che nella vita c'è chi può e chi non può, c'è chi può e chi può un po' meno, e quindi semplicemente abbiamo la conferma che nella vita si va a diverse velocità a seconda delle possibilità che si hanno. Dopodiché io credo che a me Higuain che se ne va, che dira che se ne va, Pjanic che se ne va, a me non fanno né caldo né freddo, se devo essere sincero. Mi urta molto di più, restando nel piccolo mondo di cui ci occupiamo, quindi nel piccolo mondo del calcio, mi urta molto di più leggere quello che ho letto pochi minuti fa di Damiano Tommasi sulle sue parole a proposito del fatto che non si riprenderà il campionato, che probabilmente accadrà, insomma, ma andrebbe un po' tutto calato nel contesto che viviamo. Oggi ci sono milioni di lavoratori a casa che non dicono la mia azienda non riprenderà, dicono speriamo che la mia azienda possa riprendere il prima possibile. Ecco, mi sembra che il mondo del calcio viva ancora al di fuori della realtà, completamente staccata. Davanti all'ipotesi di un taglio degli stipendi, ne ha parlato con noi il presidente Gravina mercoledì, la risposta è stata vedremo, perché dovremo valutare insieme in che modo poter poi ragionare e calcolare, cioè una supercazzola per dire che alla fine cercheranno di tirarsi indietro, perché questa è la sostanza. Ecco, io trovo questo, mi pare che anche all'estero, Giovanni, mi pare anche all'estero ne stiamo parlando, ad esempio il Barcellona. Beh, ma all'estero c'è anche chi li ha licenziati, anche i giocatori, in Svizzera. In Francia c'è una legge che permette di mettere sostanzialmente in una sorta di cassa integrazione, che tra l'altro è anche la soluzione che accadrà in Italia, ad esempio per i giocatori di Serie C, dove fosse necessario, perché poi chiaramente noi parliamo genericamente di calciatori, ma ci sono situazioni profondamente diverse. Io guardavo uno studio ieri, ufficiale, fatto su dati dell'INPS e su dati dell'Agenzia delle Entrate. Ci sono un quarto degli atleti, dei dirigenti, degli allenatori che lavorano con il calcio in Italia, e quindi sono ovviamente quasi tutti concentrati in Serie A, hanno stipendi che vanno da 700.000 euro in su all'anno. Ecco, io credo che vadano dove vogliono con l'aereo che si possono permettere, ma sia chiaro che il messaggio che devono lanciare è che faranno sacrifici come tutti gli altri. Mi sembra che questa seconda parte della sensibilità stia complessivamente mancando. Stia un po' Carlo, vacillando, sì. Carlo, scusami, rispetto al messaggio simbolico che cui faceva riferimento a Pier, cioè al di là di qualsiasi valutazione legale o sanitaria che abbiamo fatto, però devo ricordare una cosa, cioè noi siamo pieni di connazionali nostri italiani che erano in giro per Erasmus, per lavoro, e che insomma giustamente tenta di tornare a casa, perché l'Italia è casa loro. Quindi io volevo dire, ci mancherebbe, ci sono atleti che dicono questa è casa mia. Tu penso che da grande appassionato di basket avrai letto stamattina un intervento che abbiamo pubblicato sul Corriere, Tarceschi, che dice io sono americano del New Hampshire ma me ne sto a Milano adesso, perché adesso preferisco stare qui, è una scelta individuale, ed è una scelta. secondo me Higuain è argentino, se non viola una legge, io lo, cioè non è che voglio difendere Higuain, ma lo capisco anche, dice voglio andare a casa mia. E come piani ci ha fatto lo stesso. Ma sai, ma ti ho detto prima, Max, di Messina sta che anche, e ci sta anche nell'ambito della sicurezza, ovviamente, del trasporto, sì, no, deve certo. dire con sicurezza, che una persona che vive, che è originaria di un luogo dove questa epidemia, in questo momento questa pandemia, è meno diffusa, possa avere legittimamente la, sì, il, sì. il desiderio di andare lì, insomma, a patto ovviamente che non infetti nessuno, cioè certo, il tema vero certo, è questo. Certo. No, ma questo. Nel rispetto se, della, se della Higuain, legge. Se Higuain se ne va su un eremo tranquillo a casa sua, ma tutto sommato fa anche un servizio, piuttosto che andare in giro per Torino, no? Quindi o come veramente... ha fatto, o come ha fatto l'attaccante del Real, come ha fatto Jovic, come ha fatto Jovic, e in quel caso lì sì che c'è stata una violazione della legge, ma poi, posso dire una cosa sul tema se vuoi da bar, no? del fatto che chiaramente non siamo tutti uguali di fronte al virus, è vero, perché c'è chi può permettersi l'aereo privato, c'è chi ha una casa col terrazzo, c'è chi ha il giardino, magari c'è anche la piscina anche che vero, devo fare. È anche vero che ci sono poche cose democratiche come il virus, se mi consenti, perché poi scopriamo che Alberto di Monaco è positivo, faccio per dirti, no? Cioè questo ci racconta proprio come il virus non, da questo punto di vista non guarda in faccia a nessuno, anzi paradossalmente più ai contatti e più hai rapporti col mondo, più viaggi e più sei, diciamo, veloce in quest'epoca veloce, più hai la possibilità di aver contratto questo tipo di morbo. Sicuro. Comunque, ripeto, molto diffuso anche tra i politici. Non mi piace in assoluto, figurati su una questione come questa. No, ma infatti, ma come dicevi tu, cioè tra un po' ce la prenderemo con il vicino o conoscente che ha la piscina e sta in giardino tutto il giorno, quindi sta a casa sua, tutti gli altri che deve fare, non stare all'aperto quando può farlo a casa sua, questa mi sembra abbastanza follia. Leonardo, buongiorno. Buongiorno, una considerazione su quanto riguarda questi giocatori che sono andati nei loro paesi di origine. E, quando ci sono stati nelle settimane scorse degli italiani che stavano all'estero, hanno fatto molta fatica a rientrare in Italia, se ci sono riusciti. Adesso, fra un mese, 20 giorni, 15 giorni, quando tenteranno di rientrare in Italia, potranno farlo tranquillamente? Verrà loro fatto un tampone? Potrebbero risultare positivi e quindi doversi sottoporre a quarantena. Uh-huh. Cioè, come diceva Pardo, il virus è democratico. Sì. E andare in un luogo dove ora non c'è e non sappiamo le condizioni dell'Argentina o della Francia o del Brasile o di altre, scusatemi, del Brasile, dell'Argentina, altri paesi centroamericani, sudamericani. Ma poi dopo per il rientro in Italia, visto che molte nazioni hanno bloccato i voli. Beh, Leonardo, si seguiranno leggi e procedure vigenti, ad no? Quindi... le procedure vigenti non permettono agli italiani in questo momento di rientrare dall'estero in Italia, eh? Attenzione, perché chi in questo momento non credo che Higuain e gli altri vogliano tornare. L'ascoltatore ha ragione, cioè, si apre. Non è un tema. No, anche secondo me non è un tema. Quando tornerà, cioè, tema, lo farà nelle condizioni di sicurezza due vigenti. Settimane o un mese o quando sarà. Ci sarà la condizione per cui vorranno rientrare, ci saranno le regole di quel momento, magari prevederanno i 14 giorni di quarantena. Scusate, non è vero che non si può rientrare. La commissaria europea von der Leyen ha chiuso le frontiere di Schengen e quelle dell'UE e anche alcuni stati hanno deciso singolarmente, ma ha fatto salvo che i cittadini di ogni stato hanno diritto di rientrare. Sì. Cioè, che può, cioè, dice, sì. Io dividerei la possibilità pratica, che ovviamente è difficile, dalla possibilità giuridica. Cioè ci sono tantissimi noti Erasmus in Spagna che, per i quali sono state organizzate navi, perché ieri non c'erano, Barcellona-Napoli, Barcellona-Genova, quindi io farei una differenza. Non è vero che un italiano non può rientrare in Italia adesso, cioè questo non è vero. Non c'è l'impossibilità giuridica, in molti casi no, c'è, certo. c'è un'impossibilità pratica perché non puoi organizzarti il viaggio. C'è una possibilità concreta di quarantena, questo sì. Sì, beh, chiaro. Cioè, poi, chiaro. Ripeto, le cose, le leggi cambiano ogni giorno, magari fra un mese, me lo auguro di cuore, no, hai ragione, avremo ma una per quello che molto più rilassata. Però, ti dicevo, ognuno si muoverà i guai, compreso secondo le normative vigenti in condizioni di sicurezza. Grazie Max, a presto. Ciao, buon pomeriggio a voi. Io saluto Stefano Meloccaro. Ciao Stefano. Ci siamo. Ciao, come stai? Bene, bene, molto quarantenato bene, nel senso buono del termine, per sì, quanto buono possa essere, sono a casa come dovremmo fare tutti e faccio un appello al buon senso, ma di questi periodi non è mai abbastanza. Altro argomento da contendere riguarda il tennis, perché questa querella è particolarmente interessante, riguarda sempre la Francia e i francesi. Allora, la cronaca dice che l'ATP ha decretato lo stop di tutte le attività fino al 7 giugno, dunque Roma città chiusa, ma era abbastanza prevedibile. Però lì c'è Parigi, che in questo panorama di grandi tornei che vengono ovviamente bloccati, dice: ok, il mio Roland Garros lo faccio, e vi dico anche quando, non dico semplicemente che lo faccio, lo sposto, lo farò, eccetera, vi dico che lo faccio dal 20 di settembre al 4 di ottobre. Perché? Perché ho deciso così, e questo è il quadro. Diciamo che un po' come è successo anche nello sport, segue sempre un po' la falsariga della vita reale, no? Per cui i signori unilateralmente hanno deciso, dice noi ok, non si può fare nella data quella normale, cioè a cavallo tra la fine di maggio e la prima di giugno, bene, lo spostiamo a settembre. E abbiamo deciso che si fa in quella data lì. Allora la Lever Cup, il torneo quello tra Europa e Stati Uniti, quello che ha inventato il gruppo capitanato da Roger Federer, ha detto beh, comunichiamo che anche noi il nostro torneo, sono contemporanei praticamente, anche noi il nostro settembre torneo lo facciamo lo stesso. Solo che è un gran casino, ma è un gran casino perché in questo momento nessuno può permettersi di decidere unilateralmente nulla, cioè tutto il circuito del tennis, ma come tutti i campionati, ma come tutte le gare di qualsiasi sport del mondo, devono mettersi d'accordo insieme e decidere se congelare quello che è successo fino adesso, spostare tutto un mese avanti, traslare tutto quanto 3 mesi avanti. Per cui questa decisione è sembrata unilaterale e sbagliata a tutti quanti. Poi c'è qualcuno, siccome questo è il periodo delle polemiche, perché avendo molto tempo siamo tutti a casa, c'è qualcuno che ha detto il silenzio di Nadal parla più di qualsiasi dichiarazione, perché Nadal sì, non ha detto niente, e allora vuol dire che lui... Qualcuno ha anche detto che è stato contattato, gli è stato chiesto un parere. Ma questo, qualcuno ha detto, mio cugino ha detto, io oggi mi arrivano su WhatsApp, qualcuno mi ha scritto che tra 15 giorni il mondo chiude e si potrà andare a fare la spesa solo con l'esercito, perché così almeno guariamo tutti. Io credo che ci dovremmo dare una calmata tutti quanti. Vedo gente dal balcone che bestemmia contro ragazze solitarie che muovono dei passi di corsa, però se invece uno cammina non gli dicono niente. Siamo tutti un po' strani in questo periodo. Sì, siamo tutti un po' stressati, però siamo tutti abbastanza a casa, eh. Abbiamo anche qualche ragione per essere tutti abbastanza stressati, ciascuno sì, ha la sua ovviamente, cioè, chi c'ha figli, chi c'ha il lavoro che sparisce, chi c'ha quello che non riesce a far quadrare perché non va internet e l'azienda attende che faccia lo smart working, quindi diciamo che ci possiamo anche autoassolvere se siamo un po' schizzati in questo periodo. Sì. Dopo di che credo che la storia del Roland Garros non sia nient'altro che un'altra faccia della medaglia fra chi può e chi non può. Se il torneo di Rocca Cannuccia avesse detto noi ce ne freghiamo e giocheremo il 25 settembre, probabilmente non sarebbe comparsa nemmeno una riga. Siccome è Roland Garros, chiaramente questo va a toccare tutta una serie di equilibri, il che portano anche a ragionare su che cosa sarà il mondo dello sport dopo questa emergenza, se resteranno gli stessi equilibri, se dovremo scrivere necessariamente delle regole condivise più ampie, che ci sono già ad esempio in alcuni sport. Basta vedere il complicato rapporto tra la UEFA e le federazioni, di cui abbiamo parlato per tutta la settimana. Scopro questa mattina, io non seguo il tennis diciamo come principale occupazione, che evidentemente tutto questo nel mondo del tennis anche ad altissimo livello non c'è. Se un torneo può autonomamente decidere quando recuperare e non ad esempio come un gran premio dover in un certo senso sottostare a un calendario condiviso. Sì, certo, come Pier, però è una bizzarria in questo caso francese, non voglio fare ovviamente dello sciovinismo, non me ne frega niente, mi sono anche simpatici i francesi, però è curioso, no, che questa decisione unilaterale in un mondo che cerca di muoversi faticosamente all'unisono. Ma in un mondo dove c'è un calendario condiviso, deciso all'inizio dell'anno, e tra l'altro quella data lì è ovviamente vergata nel marmo da praticamente da sempre, perché è la data in cui si svolge il torneo da quasi 100 anni, C'è da dire che i quattro tornei dello Slam non rientrano strettamente in senso tecnico stretto sotto l'egida dell'ATP, perché i quattro tornei dello Slam e la Coppa Davis sono ancora sotto la Federazione sì. Internazionale del Tennis, per cui in teoria hanno una parvenza di indipendenza propria, ma non puoi comunque dall'oggi al domani dire ok, noi siamo lì, anche perché ci sono altri tornei che erano programmati per quella data che intrinsecamente se la devono prendere in saccoccia e questo non è possibile. Ti siedi a un tavolo e parli con gli altri. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto voglio fare i complimenti per la trasmissione. Beh, grazie. E anche soprattutto a Pierluigi Pardo, che ritengo il miglior telecronista italiano in questo momento. Lei è pazzo. Facciamoci una risata qua. Veramente. No, volevo dire la mia. Secondo me non è vero che quando finirà tutta questa storia noi seguiremo il calcio con meno passione. Secondo me invece ci appassioneremo ancora di più per il fatto di averne dovuto fare a meno in questo periodo. Le previsioni, diciamo, su larga scala sono quasi impossibili da fare. Da un lato c'è la suggestione di pensare che sarà, appunto, se questa è una guerra, sia pure una guerra non di tipo tradizionale, che ci sarà un dopoguerra. Il dopoguerra si porta sempre con sé una voglia di vivere, un'energia, una creatività, una voglia di riscatto enorme, ed è ovviamente il mio auspicio e vale per tutto, non soltanto per il pallone. E c'è anche da capire come usciremo da questa situazione qui, ma qui ovviamente dipende dal virus e dipende dalla scienza. Cioè, se noi da qui a qualche mese avremo battuto questo virus definitivamente, nel senso che sapremo che abbiamo un vaccino, una medicina, una cosa che ci protegge, e allora pian piano secondo me recupereremo anche il piacere di tante cose, altrimenti secondo me noi è possibile che nei prossimi mesi non stringeremo comunque nel dubbio la mano a nessuno, tanto per essere chiari, anche quando ricominceremo a vivere, perché sappiamo che in questo momento è la cosa più sbagliata da fare, e quindi insomma è tutto da vedere. Ma sono d'accordo sulla passione, sai, che non finisce non, la vita. Non credo che si spegnerà. Stefano, un'ultima cosa invece quanto al tennis, dal punto di vista del comportamento dei tennis, abbiamo parlato delle possibilità dei calciatori, dell'eventualità e dell'auspicio di che i calciatori si adeguino dal punto di vista economico al trend. Quanto al tennis? Quello è un bel ragionamento, perché il calciatore ha un contratto che lo mette al riparo da qualsiasi cosa, no? Cioè, io ho un quinquennale, se mi rompo due crociati mi pagano lo stipendio, sull'assicurazione e tutto. Il tennista la faccio in soldoni? No, nel senso che il tennista, se non fa tornei, semplicemente non guadagna. In questo momento la stagione è ferma per un mese e mezzo, auguriamoci che sia vero che si ferma soltanto per un mese e mezzo. Il tennista non percepisce ingaggi da nessuna parte, se non il tennista è più facile, sponsor, ma il montepremi non lo prende, per cui è il grande dilemma dei tennisti, e non tanto di Federer, che ha 150 milioni di miliardi di triliardi di dollari in banca, ma il numero 110 del mondo in questo momento ha un problema serio. Come lo risolviamo? Non lo so, però è così. No, il tennista, ma il tennis è più semplice, ragazzi. Il tennis, essendo appunto uno sport individuale con i montepremi dei tornei, è più semplice. Nel tennis è facile pensare che ci sarà nel periodo immediatamente successivo a questo incubo, ci sarà una riduzione delle sponsorizzazioni e quindi del montepremi del torneo, per cui se il montepremi del torneo era 2 milioni di euro diventa 1,6 milioni, e a cascata i premi saranno più bassi, i rapporti con gli sponsor. Questo è possibile, però il problema del tennista è proprio, non è tanto quello di quando si riprenderà a giocare, perché quando si riprenderà a giocare, tutto sommato, alla fine, se Wimbledon ha 2 milioni di dollari di montepremi, resterà tale, perché vedi, sì, magari se si giocherà, ti faccio un esempio, a porte chiuse diventerà il 30% in meno, no? Il problema del tennis è quando non si gioca, perché ribadisco, il calciatore viene pagato lo stesso, salvo accordi di diverso tipo che non ci sono, però il tennista no, cioè queste sono 6 settimane in cui il tennista non gioca e non prende zero. È come banalmente il rapporto che esiste fra le partite IVA tennista partita IVA. Grazie Stefano, a presto. Ciao ragazzi, abbraccio. Rosario, provincia di Salerno, poi ci fermiamo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, ciao. Mi fa molto piacere perché avete affrontato tutti i temi che stiamo, diciamo, parliamo ormai sui gruppi super affollati oggi di WhatsApp e delle altre catene varie che abbiamo sui nostri ormai cellulari che utilizziamo ogni giorno. Però una cosa mi piacerebbe, ecco, abbiamo parlato della paura sociale che ormai impasta per colpa di questo virus tra virgolette, però sarebbe anche il caso che i media, oltre che impaurire la popolazione e per far rispettare il necessario isolamento sociale di questo momento, aiuti anche a distendere un po' i toni, perché penso che, come ha detto già un vostro ospite, io sono anche un runner e nascondersi la mattina alle 5:30 per fare un'oretta di quello che faccio da ora ho 46 anni, che faccio da quando avevo 15 anni, no, è incredibile. Penso sia una cosa assurda, Pardo. Io capisco anche la difficoltà che molte famiglie hanno. Per esempio, c'è un mio amico che fa il barbiere, si chiama dalle nostre parti, che è anche un runner. Lui è chiuso ormai da 15 giorni. Inizia stamattina, ci siamo sentiti per raccontarci il percorso nascosto che ognuno dei due ha dovuto fare attorno a casa sua per fare un'ora benedetta di corsa. Rosario, ma l'ipotesi di stare a casa non la prende in considerazione? E di ricominciare a correre fra un paio di mesi, sperando che sia un paio di mesi. C'è un bell'articolo su Repubblica al riguardo. A Repubblica di oggi, riguardo la considerazione di stare a casa. Però deve capire, mi scusi, non ricordo il suo nome, deve capire che la necessità della corsa per chi lo fa da 40 anni è una necessità e fa star bene. Per esempio questo sì, mio però, amico Martin. Vede Rosario, io non sono uno che corre da 40 anni anche se di sport ne ho fatto, però la necessità che capisco perché nei momenti in cui lunghi, in cui invece ci si allena, è chiaro che provoca benessere fisico e psicologico, la necessità sua è di milioni di persone che fanno i runner, è la stessa necessità di milioni di bambini che invece stanno chiusi in casa e che non capiscono nemmeno perché stanno chiusi in casa, perché diventa difficile spiegarglielo, è la difficoltà di milioni di anziani che magari avevano, o centinaia di migliaia, che hanno l'orto da curare, che era l'unico momento di svago e socialità, e sono tutte esigenze che in tempo di normalità sono esigenze normali. Dopodiché io mio figlio lo tengo in casa da un mese, è uscito 20 minuti e mi perdoni Rosario, può stare a casa anche lei, ma senza voler criminalizzare i runner, nel senso, esatto, che io capisco, esatto, anche gran parte del suo discorso, secondo me, però se tutti mettiamo davanti la necessità e l'esigenza di cose che non sono primarie, io ho l'impressione che non ne veniamo a capo, ma non perché lei incontagerà qualcuno o contagerà se stesso, ma perché il suo discorso moltiplicato per 15 milioni fa un totale che non consente che queste misure abbiano alla fine una riuscita. Ragazzi, sì, facciamo soprattutto voglio dire, l'esigenza, allora, correre da soli ovviamente non crea nessun problema di contagio, questo è indiscutibile, però è il principio, no? Il principio è legato al benessere. E quindi, così come lei può avere questo tipo di piacere, altri possono avere gli altri piaceri che possono diventare più pericolosi. Io in generale capisco perfettamente, perché mi arrivano tante segnalazioni in questo momento per gente abituata a fare jogging, sentirsi additati come se fossero dei delinquenti o dei terroristi fa veramente un po' ridere e un po' piangere. Però il ragionamento fondamentale è quello che dice Giovanni, cioè noi siamo non abbiamo, la nostra generazione non ha mai vissuto una guerra, in questo momento ci chiedono di stare a casa, la nostra guerra è stare a casa, a meno che non dobbiamo fare un lavoro di quelli ritenuti essenziali. Quindi questi sono, questo è lo stato dell'arte. Sì, questo è lo stato. È chiaro che dobbiamo rinunciare. La guerra mondiale è durata 5 anni, ecco, cioè, tutti dobbiamo rinunciare a un pezzettino di qualche cosa, anche di quello che ci può far star bene, per giustificati motivi e non inutilmente, come è ovvio. Allora facciamo così, fermiamoci per la borsa, poi avremo Giovanni Bruno con cui torneremo anche su questo tema e parleremo di Olimpiadi e tutti gli altri sport. Questi personaggi che guadagnano milioni di euro se ne fottono dei comuni mortali, se ne fottono dei tifosi che li adorano. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Giovanni Bruno, buongiorno. Ciao direttore. Buongiorno a voi. Come stai? Beh, ho visto bene, ti vedo in onda, ti vedo in onda in continuazione su Sky, ovviamente, a rispondere a un sacco di quesiti, di domande, te ne facciamo un po' anche noi. No, volentieri, no. Io sto benissimo, in questo momento sto a casa, poi ogni tanto vado in ufficio per quelle, certo, per quel che cose serve. Che servono, sono utili, e in più mi attengo rigorosamente all'allenamento sui rulli, visto che sono un ciclista di quelli. Sei un ciclista pressoché professionista, in questa querela, poi parliamo di Olimpiadi e di altre cose, in questa querela che ormai è di gran voga sul praticare sport all'aperto, come, qual è la tua posizione? Ma la mia posizione è stare a casa, e a casa mi sono organizzato, faccio rulli ogni giorno, 30 minuti perché sono ciclista, ma potrei, mia figlia che è una buonissima schermitrice, non fa altro che salire e scendere le scale con punta dei piedi, talloni eccetera, quindi sta allena in quella maniera. Francamente ieri, tornando dall'ufficio, ho trovato un gruppetto di quattro che correvano e mi è sembrato assolutamente, diciamo, assurdo, allucinante, cioè puoi correre pure da solo, ma ti devi organizzare, più che altro è anche una questione di esempio, secondo me, quindi è meglio stare a casa. Lo fanno i professionisti, lo devono fare da un punto di vista proprio di preparazione, vedi le Olimpiadi o altre cose, ma sono professionisti. Noi siamo dei buoni amatori, ci fa bene l'aria aperta, però in questo momento secondo me è molto meglio come esempio stare a casa, appunto. C'è chi mi scrive. No, ma poi perdonami Carlo, ci fa bene l'aria aperta, è la chiave di tutto, cioè ci fa bene l'aria aperta, in questo momento ci fa male l'aria aperta e quindi è bene evitare di stare all'aria aperta se se ne può fare meno. Con questo però, d'accordo. Se posso dire una cosa, perché prima ci siamo un po' accalorati con l'amico che difendeva la sua posizione di runner, poi è chiaro che non è il problema dell'esplosione dei contagi legato a quelli che vanno a farsi la loro corsetta, perché altrimenti facciamo finta di guardare il dito invece di inquadrare la luna, e noi di questo non ci occupiamo, parliamo dei runner perché ha chiamato l'amico, poi siamo consapevoli che non sono le corse di quelli che non ce la fanno a stare a casa che in questo momento stanno creando il problema, è semplicemente una questione che fa parte di un ragionamento più ampio. Sicuro. Fa parte di un ragionamento sulle regole, perché ripeto, il principio è che poi se tu vai a correre, e ovviamente correre da soli non crea nessun rischio perché ci sono tutte le distanze di sicurezza, però in qualche modo alimenti un tipo di traffico che poi porterà altre persone a uscire. È un attenersi alle regole, anche se in questo momento sicuramente è doloroso, e io che tutto sono meno che un runner e che il mio sport preferito che è il carboidrato a casa posso tranquillamente praticarlo, capisco. Il famoso torneo dell'avvolgibile, sono perfettamente d'accordo con te. Capisco però in generale, in assoluto, soprattutto per chi ha case piccole eccetera eccetera, che poi ci deve essere anche una sorta di supporto psicologico a questa situazione, perché è importante che, come si dice a Roma, la gente non scapocci, non vada via di testa, soprattutto se la cosa dovesse durare per un po', ecco, tutto qui. Quindi no alla criminalizzazione dei runner, però secondo me capire che in questo momento è un sacrificio che più che dal punto di vista pratico ha valore dal punto di vista simbolico, perché significa comunque non alimentare il traffico, il casino, anche banalmente l'attenzione delle forze dell'ordine, no? Che in questo momento devono occuparsi di altre questioni, non posso andare in giro nei parchi a controllare se ci sono le distanze o no, anche questo significa semplificare il sistema, per cui è un sacrificio sicuramente che ha una ragione. Che è motivato. Tra poco parla agli ascoltatori, Paolo e Luciano sono già in linea, però voglio far sentire a Giovanni Bruno cosa ha detto stamattina Iuri Chechi, ospite di Alessandro Milan. Io sono basito dall'atteggiamento, io sono l'ultimo degli statisti e di quelli che può e deve prendere decisioni, ci mancherebbe, però basito dall'atteggiamento così, e capisco gli interessi miliardari che muove l'evento sportivo più importante del mondo come i Giochi Olimpici, e lo dice uno che ha vissuto per le Olimpiadi e ha fatto di tutto per partecipare e vincere le Olimpiadi, però davvero questa presa di posizione ancora nel dire si faranno, mi sembra davvero anche poco rispettoso rispetto alla situazione che sta vivendo ormai il mondo. Questo, Yurichè, che a proposito dei giochi olimpici, io sto leggendo ad esempio su Sky Samaranch, sto leggendo le dichiarazioni di Malagò che conoscete, rimane quel baluardo del 24 luglio. L'altro giorno giustamente Giovanni Capuano diceva sarebbe bello pensare idealmente a quello come la ripresa della vita, però Giovanni Bruno, credo che in questo momento si possa agire in due modi, cioè mettersi sotto le coperte e aspettare in silenzio che tutto passi, oppure lavorare coraggiosamente e prendere decisioni per un futuro che comunque ci sarà, lavorare per riprogrammare al momento anche al buio e sulla speranza. Allora sì, certo, ma esistono, come ci sono, ma ieri parlavo con Paolo Bellino di RCS per quanto riguarda tutte le corse ciclistiche del loro gruppo, ovvero sia Giro d'Italia, Milano-Sanremo e via dicendo, no? Stanno cercando di salvare il salvabile spostando, sistemando nei calendari, è un nuovo gioco, chiamiamolo così, visto che con Pier giocavamo col torneo dell'avvolgibile. Ma tornando un attimo seri, io il discorso del baluardo te lo dico in funzione di, e l'ho sempre detto, chiamalo retorica, chiamala speranza, chiamala come ti pare, ma io per adesso mi sono posto questo, diciamo, come perseguire, no? Diciamo, per me il 24 luglio e mancano un po' meno di 130 giorni. Sono conscio delle enormi difficoltà, sono conscio di quello che andiamo incontro e che non sappiamo la data di fine né la data di inizio, di qualunque cosa, ma almeno dammelo come obiettivo. Poi arrivo a maggio e vediamo che cosa succede, ma dammelo come obiettivo. Ma guarda, ho parlato poco tempo fa, stamattina, con Elia Viviani, parliamo della medaglia d'oro sulla pista, ha enormi difficoltà, perché lui dice: io sulla strada quest'anno non me l'ero posto come obiettivo primario, ma mi sono posto l'obiettivo primario della medaglia olimpica. Quindi vuol dire allenarsi dentro un palazzetto, in un velodromo. In Italia il velodromo è Montichiari, Montichiari vuol dire Brescia, Brescia vuol dire zona rossa, lui sta a Udine e non si muove. Quindi diciamo anche, però lui dice: io adesso faccio uno scarico di una settimana, poi lavoro sui rulli, poi lavoro lì, poi faccio delle uscite da solo, eccetera, eccetera, che sono un professionista, posso farlo, eccetera, poi vediamo che cosa succede. È indubbio che pure lui cambierà preparazione in funzione di quello che avverrà, però lasciami ancora quel barlume di luce là in fondo che si chiama 24 di luglio, anche perché il comitato organizzatore non ha detto né a ben va, ha preso la torcia olimpica, se la stanno portando a casa, da lì faranno l'organizzazione. È indubbio che quello che dice Yurichè, gli interessi miliardari, certo, ti faccio pure i numeri, sono 74 miliardi di indotto per quanto riguarda il turismo giapponese, ne fa abitualmente 41, l'aumento arriverà a 75, questo è il loro obiettivo. Non è né le infrastrutture, sapete meglio di me, servono per il futuro, servono come base, eccetera, eccetera. Questo è il concetto del turismo, loro andrebbero comunque a carte 48, comunque, perché stai sicuro che non è che se cominceranno le Olimpiadi con tutto avanti loro riempiranno, uh-huh. Saranno, lo sapete perfettamente, ma chi si muove? Ma chi si muove? Ma è pensabile, direttore, è pensabile una situazione tipo europei di calcio, cioè spostare tutto di un anno? Allora, non è mai successo, sapete che sono spostate sedi, che alcune sedi non erano in grado di, e quindi si erano a disposizione, è stata spostata l'Olimpiade, giusto per fare una botta di storicismo, tre volte, tolta, non si è corso, 40, 44, 1916, 40 e 44. Motivi li conosciamo. Sapete perfettamente che anni erano, quindi è così. Tra l'altro il 40 si doveva fare in Giappone, l'Olimpiade. Comunque, io vedo lo spostamento nell'arco dell'anno, no. Io vedo un pochino, come dice Pier, modello europeo, ma andrei al 2022. Il 2021 è pieno di campionati del mondo già assegnati e già organizzati, o cancello o fanno una situazione, ma è molto complicata, perché guardate l'organizzazione sembra, ma è terribile, o cancellano completamente tutti i campionati del mondo e fanno come ha fatto per esempio il biathlon mondiale di Anterselva, che è valso anche per la Coppa del Mondo punteggio. Allora l'Olimpiade può dire: benissimo, voi facciamo l'Olimpiade il 2021 e le discipline che erano previste per campionati del mondo viene assegnato anche il titolo mondiale. Sì. oppure si slitta a una tranquillità di azione e si ritorna come era prima dello sdoppiamento voluto più che altro dalle televisioni per i diritti europei, per i diritti carissimi, che era quella del 1996, 94 era tutto insieme, 94 Lillehammer, invernale, 96 Atlanta, e quindi 22 con le Olimpiadi invernali a Pechino e Olimpiadi estive a Tokyo, quindi si rimane nell'ambito asiatico. Quindi le soluzioni sono queste, 2 anni sono tanti sinceramente, anche per molti aspetti compresi quelli agonistici. Traffico, torniamo subito. C'è a chi ci manca il calcio, c'è a chi ci manca la corsa, a me mi manca il caffè del bar. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Vorrei sentire anche l'opinione dei miei interlocutori abituali sulla questione Olimpiadi, Giovanni Capuano. Ma guarda, io credo che in realtà sia legittimo non anticipare una decisione che probabilmente dolorosamente dovrà arrivare. C'è tempo per farla, c'è un margine ancora di qualche settimana, non di qualche mese. Leggevo alcuni report dal Giappone, il grosso degli investimenti, chiaramente la quasi totalità degli investimenti è stata fatta, quindi si tratta di vedere se si riesce a minimizzare anche in questo caso il danno, e non, dobbiamo cercare di non essere ipocriti, è un tema che abbiamo affrontato tante volte in questi giorni a proposito del calcio. Certo che c'entra l'aspetto economico, certo che c'entrano gli interessi di chi ha investito magari 1,3 miliardi di diritti TV come capita negli Stati Uniti, 1 miliardo come ha fatto Discovery per l'Europa, il Giappone che ci ha investito decine di miliardi di euro per strutture che resteranno, per infrastrutture e anche per poter fare dell'Olimpiade quello che raramente è stato, cioè un volano per l'economia. E quindi io credo sia legittimo che si vada fino all'ultimo minuto utile prima di dire che non si fanno le Olimpiadi, esattamente come per qualunque altra cosa della vita comune in questo momento di emergenza e di difficoltà. Capisco la difficoltà degli atleti, capisco che per molti significa dover abortire un sogno oppure doversi non preparare nella maniera adeguata se poi si dovessero tenere, però anche questo fa parte della gestione di questo momento. Tutti noi stiamo rinunciando a qualcosa anche di importante, anche sul nostro lavoro, anche di economico, anche di prospettive, anche di speranza, anche di progetti, anche di investimenti fatti, e quindi lo sport non può sottrarsi a questa logica. Il 24 luglio è ancora abbastanza lontano, anche se intuitivamente noi pensiamo che quelle Olimpiadi non si potranno fare, ma c'è ancora del margine prima di metterlo nero su bianco. E aggiungo, Pierluigi Pardo, che la posizione di molti degli atleti o ex atleti o bandiera di Chierichelli, l'abbiamo sentito, sto leggendo ora di Giuseppe Abbagnale che dice rinviare le Olimpiadi, Chierichelli, insomma tanti sono gli atleti, le predisposizioni degli atleti per spostare l'Olimpiade. Tu che ne pensi, Pier? No, io penso che ci sia un altro aspetto legato agli investimenti, giustamente Capuano sottolineava gli investimenti fatti, tu devi considerare, mettiti anche nei panni per esempio delle televisioni e degli sponsor, non è comunque il momento buono questo, rischia di non essere il momento buono, nel senso che una soluzione efficace non c'è, nel senso che se rimandi sicuramente crei un danno, se tieni però arrivi probabilmente alle Giochi Olimpici che dal punto di vista per esempio della raccolta pubblicitaria in un momento come questo possono essere molto complicati, perché se non riparte l'economia, se siamo in un momento in cui le aziende giustamente hanno paura perché non vedono uno scenario chiaro davanti a loro, insomma la soluzione non c'è, e le implicazioni sono di mille aspetti diversi. La cosa di Elia Viviani che ci raccontava il direttore mi sembra abbastanza significativa, perché immagino che sia pieno di atleti che in questo momento non riescono a prepararsi come vorrebbero, e anche dal punto di vista secondo me della par condicio delle condizioni di partenza, insomma non è che tutti i posti del mondo in questo momento hanno le stesse regole. Comunque vada, sarà difficile, comunque quindi, vada, capito, non sarà un successo. Giusto per darvi un altro termine di confronto di quello che diceva Viviani, perché scherzando avendo lui gareggiato anche con un signore che si chiama Christopher Froome. Froome in Sudafrica fa 7 ore di bicicletta, 7 ore di bici in Sudafrica, cioè si allena come un disperato, basta vedere quello che posta su Strava, che sarebbe il sistema di rilevamento dei percorsi, ed è micidiale, quindi è giustissimo quello che diceva Pier, la differenza. Non sono d'accordo sull'investimento pubblicitario da parte delle aziende sponsor delle Olimpiadi, che secondo me il giorno che la fiaccola aprirà i giochi olimpici, secondo me l'investimento che avevano budgettato e previsto sarà forse ancora maggiore, per una questione, diciamo, di ricominciare e del bello da vedere. Speriamo. Questo me lo auguro, ma certo, poi concordo veramente, si naviga a vista. Dipende da mille variabili. Cioè, allora, per essere molto chiari, delle Olimpiadi in mezzo a una serie di macerie, parlo di macerie dal punto di vista economico ovviamente, non voglio pensare a cose ancora più tristi, ma insomma con un mondo chiuso, ecco, cioè le Olimpiadi in mezzo al lockdown da un lato potrebbero essere uno straordinario segnale di speranza, dall'altro però capisci che il mondo economico che fa, che obiettivi, cioè banalmente in questo periodo sta saltando tutto, tantissimi eventi grandi e piccoli stanno venendo meno, ci sono le compagnie aeree che si interrogano sul futuro. Probabilmente questo virus ci lascerà anche delle ripercussioni di carattere proprio comportamentale. È molto probabile pensare che le aziende a questo punto lo smart working anche dopo lo incoraggeranno molto di più, e che magari non si andrà da Londra a New York per fare 2 riunioni come qualche volta succede, no? Quindi è proprio un cambiamento totale del mondo. Poi l'aspetto che a noi interessa di più da appassionati di sport è l'aspetto simbolico. Questo vale per il calcio, vale per le Olimpiadi. Lo sport che in questo momento deve cedere il passo, dopo avrà un ruolo fondamentale nel recuperare una speranza, un'identità, una passione, un'energia. L'abbiamo sempre fatto. Quindi questo secondo me sarà fondamentale. Qui io prevedo veramente l'effetto dopoguerra, l'effetto Coppi e Bartali, perché c'è di Bartali che vince il Tour de France e compatta l'Italia, perché da questo punto di vista lo sport ha una potenza che pochissime altre cose hanno. Non riesco a parlare con gli ascoltatori, purtroppo, lo dico di comunicazione e servizio, ringrazio Paolo, Luciano e Giancarlo, ma appuntamento, noi ci saremo lunedì, tutti convocati weekend rinviato alla ripresa dei giochi, o comunque quanto prima, però faccio ancora una domanda io a Giovanni Bruno, una considerazione chiedo a Giovanni Bruno. C'è un ascoltatore che voleva parlare del Giro d'Italia, vengono chiusi, vengono sgretolati in questo momento tanti santuari, il Gran Premio di Monaco che non si correrà, la prima corsa ufficialmente cancellata, ed è abbastanza simbolico, si parla di ciclismo, Giro d'Italia, Tour de France, come operare su queste corse? Allora, vengono cancellate tutte le corse tra virgolette minori, chiamiamole minori, sì. Che vuol dire, ci metto dentro anche una che io adoro, che è la Freccia Vallone, però non ci sarà la Freccia Vallone, quindi vengono salvate le 5 super, cercano di salvare, attenzione, cercano, sono Pier Mammazza, cercano di salvare le 5 corse, Milano-Sanremo, Giro di Lombardia, Parigi-Roubaix, Fiandre e Liegi-Bassoliegi. Di sicuro viene spostato il Giro d'Italia con l'approvazione dell'UCI, deve ancora ratificare, insomma, però l'idea di spostarlo, incastrando tutto, a ottobre. A questo punto la Milano-Sanremo dovrebbe andare a fine settembre, il Giro di Lombardia è spostato leggermente in avanti, però attenzione, stesso discorso che faceva Pierre dell'Olimpiade, si trova nello stesso periodo una corsa che si resta giallo, ovvero sia il Tour. Il Tour che è previsto per fine giugno-luglio, proprio per una questione, per deve far cominciare l'Olimpiade, è quella più a rischio in questo momento. I francesi hanno spostato il Roland Garros, facendo imbestialire tutti quanti, spostandolo così, senza avere parere dell'ATP o di altri, in una zona di calendario che ha pestato i piedi un po' ad altre manifestazioni. Adesso bisogna capire come il Tour, sapete perfettamente che il Tour è la corsa più importante in assoluto, quindi vediamo se si deve spostare il Tour o meno. Sì, tanto alla fine decideranno i francesi, ci faranno sapere, ci comunicheranno. Come sempre ce lo diranno. ci facciano diranno, sapere, ci facciano io sapere. Ogni volta vorrei beccare Bartali forse in vita ancora, guarda. Ciao Giovanni, grazie. Grazie Giovanni. Grazie Bruno. A voi, un abbraccio a tutti. Un abbraccio Giovanni Bruno, a Giovanni Capuano, a Pierluigi Pardo, oltre che a Lorenzo Nespoli e Claudia Schiattone oggi in redazione, Roberta Frisani in regia. Ci sentiamo tutti convocati lunedì alle 2. Venga, è stato una montagna russa. Ciao Radio 24. Saluti!